Il terzo anello, ad alta voce. Il richiamo della foresta di Jack London. Traduzione di Gianni Celati. Con quel carico postale da tirare, il duro lavoro della pista sfinì i cani. Quando arrivarono a Dawson erano magri, in pessime condizioni, ed avrebbero avuto bisogno di almeno una settimana o 10 giorni di riposo. E invece 2 giorni dopo stavano già scendendo dalle barracks lungo le rive dello Yukon, carichi di lettere per il mondo esterno. I cani erano spossati, i conducenti di cattivo umore, e a peggiorare le cose nevicava ogni giorno, il che significava una pista molle, maggior attrito dei pattini, maggior sforzo dei cani. Tuttavia, i conducenti si comportavano molto bene e facevano del loro meglio per aiutare gli animali. Quando furono a Cassiar Bar, Dave era tanto debole che cadeva continuamente tra le tirelle. Il mezzosangue fece arrestare il convoglio e lo tolse dalla muta, sostituendolo con Sollex, accosto alla slitta. Intendeva far riposare Dave, lasciandolo correre libero dietro la slitta. Invece, pur malato com'era, Dave, tolto dal tiro, si irritò e brontolava e mugolava mentre quelli scioglievano i tiranti. Poi gemeva disperatamente quando vide mettere Sollex nel posto che era suo e che gli aveva occupato per tanto tempo. Infatti v'era in lui tutto l'orgoglio del lavoro di traino sulla pista e, pur malato a morte, non poteva sopportare che un altro cane svolgesse le sue mansioni. Quando la slitta partì, Dave si muoveva faticosamente sulla neve molle, al lato della pista battuta, attaccando con morsi Sollex, avventandosi contro di lui e tentando di scagliarlo sulla neve fresca dall'altro lato, facendo sforzi per saltar dentro le tirelle e mettersi tra Sollex e la slitta. E intanto guaiva e piangeva per il dolore e il disappunto. Il mezzosangue tentò di scacciarlo con la frusta, ma egli non badava alle frustate. L'uomo non ebbe cuore di colpirlo più forte. Dave si rifiutava di correre tranquillo dietro la slitta, dove muoversi era più facile, e continuava invece a correre al lato, dove la neve molle rendeva il cammino più faticoso, finché fu esausto. E allora cadde a terra e rimase dove era caduto, lanciando lugubri ululati mentre il convoglio di slitte lo sorpassava. Con gli ultimi residui di forze riuscì a trascinarsi ancora, fin quando il convoglio non fece una sosta. Allora si fece strada attraverso le slitte sino alla sua, dove si pose a fianco di Sollex. Il suo conducente s'era distratto un attimo per farsi accendere la pipa dal compagno che aveva alle spalle. Tornò al suo posto, avviò i cani. Essi partirono senza nessuno sforzo, poi volgendo la testa a guardare indietro perplessi e fermandosi stupefatti. Anche il conducente era stupito perché la slitta non s'era mossa. Chiamò i compagni a constatare con i loro occhi cosa era accaduto. Dave aveva reciso con i denti entrambe le tirelle di Sollex e adesso si teneva davanti alla slitta, nel posto che gli spettava. Con gli occhi implorava che lo lasciassero al suo posto. Il conducente era perplesso. I suoi compagni spiegarono che un cane può anche morir di crepacuore se gli si nega il lavoro che l'ha annientato, ricordando casi noti di cani troppo vecchi per il lavoro oppure feriti che erano morti per essere stati tolti dal tiro. Inoltre consideravano un atto di pietà, poiché Dave stava per morire in ogni caso, lasciarlo morire tra le tirelle, col cuore sollevato e contento. Dunque gli rimisero i finimenti. Ed egli tirò con orgoglio di un tempo, sebbene più di una volta lasciasse sfuggire involontarie grida per le fitte di un male interno. Più volte cadde e fu trascinato tra i tiranti, e una volta la slitta gli passò sopra, così che dopo zoppicava con una gamba posteriore. Ma resse finché raggiunsero il campo, dove il conducente gli preparò un posto accanto al fuoco. Al mattino era troppo debole per viaggiare. Quando vide gli altri che venivano imbrigliati, tentò di strisciare fino al proprio conducente. Con sforzi convulsi si trasse in piedi, barcollò e cadde. Poi lentamente arrancò verso il punto in cui i suoi compagni erano preparati a partire. Metteva le zampe avanti anteriori e trascinava il corpo con un movimento a strappi. Dopodiché metteva di nuovo le zampe anteriori e dava un nuovo strappo di pochi pollici. Le forze lo abbandonarono e l'ultima volta che i suoi compagni lo videro giaceva riverso, rantolando nella neve e anelando verso di loro. E continuarono a udire il suo lugubre ululato fin quando non scomparvero dietro una barriera di alberi lungo il fiume. Qui il convoglio si fermò. Il mezzosangue scozzese lentamente tornò sui propri passi fino al campo appena lasciato. Gli uomini cessarono di parlare. Si udì un colpo di revolver. L'uomo tornò in fretta. Le fruste sibilarono. I campanelli tintinnarono allegramente. Le slitte si avviarono sollevando un nevischio lungo la pista. Ma Buck sapeva, e ogni cane sapeva, che cosa era accaduto dietro quella barriera. Trenta giorni dopo aver lasciato Dawson, il corriere di Saltwater, con Buck e i suoi compagni alla testa, giunse a Skagway. Erano tutti in condizioni pietose, esausti e abbattuti. Le 140 libbre di Buck s'erano ridotte a 115. Pike, il simulatore, che nella sua vita d'inganni aveva spesso simulato con successo l'infortunio a una gamba, adesso zoppicava davvero. Anche Sollex zoppicava. E Dub soffriva per uno strappo alla spalla. Tutti quanti avevano i piedi terribilmente mal ridotti. Non erano più in grado di saltare o procedere a balzi. Le loro zampe si abbattevano pesantemente sulla pista, facendo vibrare tutto il corpo e raddoppiando così la fatica delle giornate di viaggio. Il loro male era uno solo, la stanchezza mortale. Non era la prostrazione che viene da brevi ed eccessivi sforzi, da cui ci si riprende con qualche ora di riposo, bensì quella derivante da un lento e protratto esaurimento delle forze in mesi di fatiche. Non era rimasta in loro alcuna capacità di recupero, alcuna energia di riserva a cui far appello. Tutto era stato consumato fino all'ultima briciola. Stanchezza e prostrazione erano in ogni muscolo, ogni fibra, ogni cellula. In meno di 5 mesi essi avevano percorso 2.500 miglia, le ultime 1.800 con 5 giorni di riposo soltanto. Quando giunsero a Skagway, avevano l'aria di essere allo stremo. A malapena riuscivano a tenere tese le tirelle. Incontrando una discesa, arrivavano appena a non farsi investir dalla slitta. «Avanti, poveri piedi malati!» rincoraggiava il guidatore, mentre trottavano giù per la strada principale di Skagway. «Siamo alla fine! Poi ci prendiamo un bel po' di riposo, eh? Sicuro! Un riposo del Domine Dio!» I guidatori confidavano in un lungo riposo che li attendeva. Essi stessi avevano coperto 1200 miglia con solo 3 giorni di sosta, e in nome del buonsenso e della giustizia spettava loro un buon periodo d'ozio. Ma tanti erano gli uomini accorsi nel Klondike, ed altrettanti parenti, le fidanzate, le mogli che non vi erano accorsi, che la posta accumulatasi stava assumendo le proporzioni di una montagna. C'erano inoltre disposizioni governative. Squadre di cani freschi mandati da Hudson Bay avrebbero sostituito quelli non più utili al traino. Di questi ultimi bisognava sbarazzarsi, e poiché i cani poco contano di fronte ai dollari, essi dovevano essere venduti. 3 giorni trascorsero, nel qual tempo Book e i suoi compagni si resero conto fino a qual punto fossero indeboliti e allo stremo. Indi, il mattino del quarto giorno, vennero 2 statunitensi e li acquistarono, finimenti e tutto, per 4 soldi. Costoro si chiamavano Al e Charles. Charles era un tipo di mezza età, colorito chiaro, occhi fiacchi e lacrimosi, con un paio di baffi che gli torceva all'insù con baldanza e vigore, e che contraddicevano le labbra molli e cadenti nascoste dietro di loro. Al era un giovanotto di 19 o 20 anni, con un grande revolver Colt e un coltello da caccia infilati in un cinturone irto di cartucce. Tale cinturone era la cosa che saltava più agli occhi del suo aspetto. Segnalava l'immaturità dell'uomo, una immaturità assoluta e ineffabile. Entrambi erano chiaramente fuori posto da quelle parti, e per qual motivo tipi del genere dovessero avventurarsi nel nord fa parte di quel mistero delle cose che oltrepassa la nostra comprensione. Book udì le voci che trattavano il prezzo e scorse il denaro che passava dalle mani dell'uomo a quelle dell'agente governativo. Comprese che il mezzosangue scozzese e i guidatori del convoglio stavano per uscire dalla sua vita, come già era accaduto per Perrault, François e gli altri scomparsi prima di loro. Quando poi con i suoi compagni lo condussero all'accampamento dei nuovi padroni, Book non vide altro che confusione e sciatteria. Una tenda mal tirata, piatti non lavati, ogni cosa in disordine. Vide inoltre una donna, che gli uomini chiamavano Mercedes. Era la moglie di Charles e sorella di Al. Una bella congrega familiare. Thank you. Buck osservò i nuovi padroni con apprensione. I loro gesti indicavano grandi sforzi, ma nessun metodo di qualche praticità. La tenda venne arrotolata in un fagotto informe, 3 volte più grosso del dovuto. I piatti di latta furono riposti senza essere lavati. Mercedes stava sempre tra i piedi dei 2 uomini, senza interrompere un perpetuo cicaleccio di rimostranze e suggerimenti. Quando il sacco del vestiario venne issato sulla parte anteriore della slitta, ella suggerì che andava messo dietro. E quando l'ebbero messo dietro e coperto con un paio d'altri fagotti, ella scoprì che alcuni oggetti dimenticati non potevano trovar posto in alcun luogo all'infuori che in quel sacco, il quale dunque di nuovo venne scaricato. Da una tenda vicina uscirono 3 uomini e si posero a osservarli, sogghignando e ammiccando tra loro. «Avete già un bel carico così com'è», disse uno di quelli. «Non voglio impicciarmi, ma se fossi in voi non mi tirerei dietro quella tenda». «Ah, questa sì che è bella!» strillò Mercedes, alzando le braccia verso il cielo con un grazioso gesto di costernazione. «E come faccio io senza tenda?» «È primavera». «Il freddo è già passato», rispose l'uomo. Essa scosse il capo con fare risoluto, e Charles e Al caricarono le ultime cianfrusaglie in cima all'enorme carico. «Credete che parta?» domandò uno degli uomini. «Perché non dovrebbe?» replicò seccamente Charles. «Ah, sicuro, sicuro», si affrettò a rispondere l'uomo con tono mite. «No, me lo chiedevo, ecco tutto. A me sembrava un po' troppo carica». Charles gli volse le spalle e si diede a tirare le corde come meglio poteva, ma non certo nel migliore dei modi. I cani si lanciarono a spingere col petto nelle cinghie, fecero grandi sforzi per qualche secondo, poi rinunciarono. Non riuscivano a spostare la slitta. «Poltroni maledetti! Vi faccio vedere io!» gridò Al, preparandosi a punirli con la frusta. Ma intervenne Mercedes gridando: «Oh Al, non farlo!» E afferrata alla frusta, gliela strappava di mano. «Poverini, devi promettermi che non sarai cattivo con loro per il resto del viaggio, altrimenti non mi muovo di qui!» «Ne sai molto tu di cani, eh?» rispose ghignando il fratello. «Te lo dico io, sono pigri e bisogna frustargli se si vuole cavarci qualcosa. È così, chiedilo in giro, chiedilo a quelli!» Mercedes guardò gli uomini con aria di supplica, ed un'indicibile ripugnanza alla vista del dolore era scritta sul suo bel volto. «Se volete saperlo, sono deboli come l'acqua», fu la replica di uno degli uomini. «Sono ridotti all'osso, questo è il fatto. Hanno bisogno di riposo». «Riposo è un accidente che gli spacchi!» gridò Al. Nuovamente la frusta di Al scese sui cani. Essi si gettarono sui tiranti all'altezza del petto, piantarono le zampe nella neve compatta, si abbassarono e spinsero con tutte le loro forze, ma la slitta tenne duro come se fosse all'ancora. Dopo altri 2 tentativi, i cani si arrestarono ansimando. La frusta sibilava senza misericordia e Mercedes ancora una volta si intromise. Con le lacrime agli occhi andò a inginocchiarsi davanti a Buck, poi gettandogli le braccia al collo. «Poverini, poverini!» piangeva la donna piena di comprensione. «Perché non fate forza? Non sareste frustati?» Quella donna non piaceva a Buck, ma egli si sentiva troppo disgraziato per opporre resistenza e la considerò parte del disgraziato lavoro di quella giornata. Thank you. Uno degli astanti, che fino ad ora aveva tenuto i denti stretti per non lasciarsi sfuggire una parola di troppo, uscì a dire: «A me non importa un fico di quel che può capitare a voi. È per i cani che voglio dirvi qualcosa. Fareste loro un bel piacere se sbloccaste la slitta. I pattini sono gelati, fanno blocco. Buttatevi di peso sulla barra, a destra e poi a sinistra, e sbloccatela». Fecero un terzo tentativo. E questa volta, seguendo il consiglio, Al sbloccò i pattini della slitta congelati nella neve. Troppo carica e poco maneggevole, la slitta avanzò a fatica, mentre Buck e i suoi compagni si dibattevano in modo spasmodico sotto una tempesta di colpi. 100 yarde più avanti, il sentiero faceva una curva e scendeva, attraverso un ripido pendio sulla strada principale del paese. Per mantenere dritta quella slitta sovraccarica sarebbe occorso un guidatore esperto, e Al non era esattamente tale. Nel compiere la curva, la slitta si ribaltò, spargendo metà del carico attraverso le corde troppo lente. Non si fermarono i cani, e la slitta alleggerita sobbalzava alle loro spalle, piegata su un lato. Erano furiosi per i maltrattamenti e per il carico troppo pesante. E Buck, furibondo, si lanciò a corsa pazza con la muta dietro di sé. Al gridava: «Oh! Oh!» Ma non gli badavano. Poi Al inciampò, andando a gambe all'aria. La slitta gli passò sopra e i cani saettarono via, diffondendo l'ilarità ovunque e seminando l'equipaggiamento lungo la strada principale di Skagway. Alcuni abitanti di buon cuore fermarono i cani, raccolsero la roba disseminata. Diedero inoltre a quelli un consiglio: se intendevano arrivare a Dawson, metà della roba ed il doppio di cani era ciò di cui avevano bisogno. Al, sua sorella e il cognato ascoltarono di malavoglia, tirarono giù la tenda e rovesciarono per terra il carico. Saltò fuori del cibo in scatola, che fece sbellicare la gente, perché sulla grande pista il cibo in scatola esiste solo nei sogni. «Qua ci son coperte per un albergo», disse uno degli uomini che ridevano, dando una mano. «Metà basta e avanza, buttatele via. E buttate via quella tenda e tutti quei piatti, chi li lava poi? Credete di viaggiare in un treno di lusso?» E così avvenne l'inesorabile eliminazione del superfluo. Mercedes pianse quando i suoi portaabiti vennero svuotati per terra e i suoi abiti gettati via capo dopo capo. Pianse in generale e pianse in particolare su ogni cosa eliminata. Stringeva le mani intorno alle ginocchia, dondolandosi avanti e indietro disperata. Dichiarò non avrebbe fatto un passo più oltre, neppure se avesse avuto una dozzina di mariti che glielo chiedevano. Fece appello a tutto e a tutti. E infine si asciugò gli occhi e cominciò a gettar via anche capi di vestiario assolutamente indispensabili. E nel suo zelo, quando ebbe finito con la sua roba, si avventò su quella dei suoi uomini, investendola come un ciclone. A questo punto l'equipaggiamento, benché dimezzato, costituiva ancora un bel mucchio di roba. Charles e Al, verso sera, andarono ad acquistare dei cani. Ne acquistarono 6 forestieri, che, aggiunti ai 6 della muta iniziale e a Tick e Kono, portarono la squadra a 14 cani. Ma quei cani forestieri, benché ammaestrati fin dallo sbarco, non erano granché. 3 di loro erano pointer a pelo corto, 1 era un Terranova e gli altri 2 bastardi di razza imprecisa. Buck e i suoi compagni li osservavano con disprezzo, e per quanto Buck in breve insegnasse loro quali erano i loro posti e cosa dovevano fare, non ci fu modo di insegnare loro cosa non dovevano fare. Non si adattavano a quel lavoro tra le tirelle. con quei nuovi cani smarriti e sprovveduti e la vecchia muta esausta da 2500 miglia di percorso senza soste, il futuro non era roseo. Tuttavia, i due uomini erano di buon umore e per giunta fieri di sé. Stavano facendo le cose in grande con 14 cani. Avevano visto molte slitte scomparire oltre il passo che conduce a Dawson ed altre rientrare da Dawson, ma mai avevano visto una slitta con 14 cani. Data la natura dei viaggi artici, c'era un motivo per cui una slitta non fosse trainata da 14 cani, ed il motivo era che una slitta non può trasportare cibo per tante bestie. Ma questo Charles e Hal non lo sapevano. Essi avevano preparato il loro viaggio sulla carta. Un tanto per cani, tanti giorni. Fatti i calcoli, problema risolto. Mercedes, intanto, sorvegliandoli alle spalle, assentiva con l'aria di chi ci capisce qualcosa. Era tutto così semplice.